English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Beh, questa settimana nella nostra puntata di English 24, dedicata come sempre al nostro viaggio all'interno della lingua inglese, non possiamo non andare negli Stati Uniti. Dobbiamo ascoltare insieme cosa ha detto Barack Obama, che è appena stato eletto presidente appunto degli Stati Uniti d'America, ma ascolteremo anche un brevissimo passo del discorso del suo avversario John McCain. Insomma, sentiremo come loro parlano in inglese. Lo facciamo con questa volta la nostra inviata e si trova proprio negli Stati Uniti. Buonasera Giulia. Beh, buongiorno per me, però buongiorno, buonasera a tutti. Allora Giulia, io direi ascoltiamo subito il primo estratto del discorso del neoeletto Barack Obama. Is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible? Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time? Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen. By people who waited 3 hours and 4 hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different, that their voices could be that difference. Allora Giulia, proprio sono le prime parole che ha pronunciato Barack Obama. Che tipo di inglese parla secondo te? Ecco, se i nostri ascoltatori si ricordano un po' Spike Lee, sicuramente sentiranno che c'è quell'accento. Barack non ha alcun problema a rivendicare proprio le sue radici, giustamente, nere, afroamericane, anche nel modo di parlare. Comincia subito dicendo, if there is anyone out there who still doubts, che cosa possono dubitare i suoi detrattori? Beh, questo è stato veramente il tema della campagna elettorale, riportare gli Stati Uniti a quello che lui chiama the dream of our founders, il sogno dei nostri padri fondatori, cioè che America is the place where all things are possible, che gli Stati Uniti sono il posto dove tutto è possibile. Se c'era ancora qualcuno who still doubts, che ha ancora dei dubbi, who still wonders, che ancora si chiede, e who still questions, che ancora si domanda, mette in dubbio il potere della democrazia, beh, tonight is your answer. A tutti questi cinici o incerti o dubbiosi, la risposta è questa sera, cioè martedì notte. C'è stata un'affluenza alle urne non normale per gli Stati Uniti e ne parla proprio in questo momento Obama. Sì, gli Stati Uniti sono un paese dove fino all'ultima elezione circa il 50% degli aventi diritto votavano. Questa volta la percentuale è salita moltissimo e quindi lui dice tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretched around school and churches. Vi assicuro, io l'ho visto, persone ordinatamente in linea, come in Italia sarebbe impossibile, tutti ligi e aspettavano il loro turno, il sindaco Bloomberg compreso, si è messo in fila anche lui qui a New York in queste linee, qui si vota come da noi nelle scuole ma anche nelle chiese, e quindi erano tutti in linea e si vedeva chiaramente che molte delle persone erano probabilmente lo facevano per la prima volta. Tu hai detto una cosa che non sarebbe tanto possibile in Italia, quell'ordine, e sentiremo anche tra poco il rispetto per l'avversario che insomma in Italia si è visto da nessuna parte, è ancora stato interiorizzato, ma sentiamo un altro passo dell'intervento di Barack Obama. I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you. It belongs to you. I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines, in the living rooms of Concord, in the front porches of Charleston. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead. For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime. Two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century. Ecco Giulia, un altro passaggio del discorso del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, subito parla al suo elettorato dicendo: a voi appartiene davvero questa vittoria. Sì, this victory, and dice I will never forget, non dimenticherò mai, who this victory truly belongs to, a chi questa vittoria veramente appartiene, e lo ripete due volte, it belongs to you, cioè a voi, voi che mi avete votato. E poi dice, ammette lui stesso, I was never the likeliest candidate for this office. To be like, sappiamo che vuol dire piacere, likely vuol dire probabile, però to be the likeliest candidate vuol dire appunto il candidato più probabile. Cioè lui all'inizio, ce lo ricordiamo tutti, no? Era stata una sorpresa e tutti pensavano che Hillary non lo avrebbe stracciato nella corsa alle primarie, e così non è stato. E lui e tutti quelli che hanno lavorato alla campagna lo sanno bene quanto è stata in salita la strada. E proprio a differenza della candidatura di Hillary Clinton, che era nata un po' nei grandi palazzi del potere, lui parla della sua candidatura nata in maniera completamente diversa. Si dice, it was not hatched in the halls of Washington, non era ancorata ai corridoi di Washington, ma ai backyards of Des Moines, Mississippi, quindi nei cortili di Mississippi, nelle stanze, nei salotti e cita questi piccoli paesi, soprattutto degli stati del sud, quindi questi portici, immaginiamo. Le case tipiche del sud degli Stati Uniti. Lui parla di un compito, di un task enorme che ha di fronte. Il task, appunto, il compito, l'obiettivo, quindi the enormity of the task that lies ahead, un'enormità che ci è avanti a noi. Two wars, due guerre, a planet in peril, un pianeta in pericolo, and the worst financial crisis in a century, quindi la peggiore crisi finanziaria del secolo. Emozionante il discorso di Barack Obama, e io devo dire emozionante anche il discorso di John McCain, perché ha fatto capire quanto la democrazia americana sia matura dal punto di vista anche del rispetto dell'avversario, perché Barack Obama ha reso gli onori a John McCain e altrettanto ha fatto il candidato che ha perso le elezioni. In a contest as long and difficult as this campaign has been, his success alone commands my respect for his ability and perseverance. But that he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans who had once wrongly believed that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. This is an historic election, and I recognize the special significance it has for African Americans and for the special pride that must be theirs tonight. Tonight, more than any night, I hold in my heart nothing but love for this country and for all its citizens. Whether they supported me or Senator Obama, I wish Godspeed to the man who was my former opponent and will be my president. Ecco Giulia, questo è il discorso invece del candidato che è stato sconfitto alle elezioni. Veramente una lezione di fair play. Sì, un discorso che ha emozionato tanto quanto me, ma forse anche tante altre persone, quanto quello di Obama. E dice, comincia dicendo, a contest as long and difficult as this campaign has been, quindi usa quella forma has been che vuol dire dall'idea di quanto lunga sia stata la campagna elettorale, quanto difficile, e dice his success alone, semplicemente il fatto che Obama ha avuto successo mi ispira rispetto per la sua abilità e per la sua coerenza e perseveranza. Quindi la prima cosa è appunto un riconoscere quanto sia grande il valore di Obama. E tra l'altro appunto riconosce anche il valore simbolico della vittoria del suo avversario. Sì, dice il fatto che sia riuscito, he managed to, quindi sia riuscito to do so, a fare così, by inspiring hopes, dando speranze, è una cosa che I deeply admire e I commend him for achieving, e quindi sono ammirato dal fatto che lui sia riuscito a fare quello che è il sogno di ogni politico, no? Ispirare delle speranze, portare le persone a fare delle cose perché una persona li ha spinti ad avere speranza nel futuro, in un momento in cui, come ha detto prima lo stesso Obama, le speranze per il futuro è difficile averne. E poi qui forse io ho visto troppi film a stelle e strisce, mi sono emozionata quando lui alla fine ha detto tonight more than any night, stanotte più che in qualsiasi altra notte, io amo il mio paese. Sì, I hold in my heart nothing but. Nothing but è un'espressione che vuol dire niente che non, quindi tutto quello che, diremmo noi. L'unica cosa, quindi I hold in my heart, tengo nel mio cuore soltanto una cosa, cioè love for this country, l'amore per questo paese e for all its citizens, per tutti i suoi cittadini. E poi dice una cosa bellissima, cioè colui che è stato fino a poche ore fa il mio former opponent, il mio avversario, adesso will be my president, anzi in questo momento è già il mio presidente. È davvero, sicuramente lo sentono anche gli ascoltatori, il tono è estremamente sincero di tutto questo, che dà l'idea che appunto forse dà speranza a tutti noi che veramente siamo entrati in una nuova era. Non vi voglio lasciare senza appuntamenti con la lingua inglese, quindi vi consiglio l'acquisto di English 24 in edicola, il nostro mensile con il nostro CD. Invece per il nostro appuntamento radiofonico dobbiamo salutarci qua. Io ringrazio e saluto Giulia Crivelli, che è stata in collegamento con noi da New York, e ringrazio Carmelo Lauricella, la parte tecnica. Da Marta Cagnola a tutti l'augurio di una buona serata.